io sono il riflesso, io sono il riflesso che mi avete dato. Tutto ciò che so lo devo a voi e a nessun altro. Sono fiero, onorato, contento, che giorno dopo giorno divento piano piano come voi, ma che bello. Quando mi guardo allo specchio, che sia nuovo o un po' vecchio, mi appare sempre il vostro volto. Sarà questa l'educazione, il rispetto, le cose da fare e da non fare. No, questo è male. Sì, questo è bene. Sì, passo dopo passo mi accorgo che sarà questo lo specchio dell'amore. Allora dico grazie mamma, grazie papà, mi avete regalato il dono più sacro, quello della vita. Oggi vi faccio un sorriso e spero che sarà il più a lungo con voi in questo mondo. In questo mondo. Voi che mi avete procreato, voi che mi avete nominato, pensato, vi dedico questo testo. Perché vi adoro, anzi vi amo, e in ogni momento sarete la mia vita, il mio cammino infinito. Quando mi guardo allo specchio, che sia nuovo o un po' vecchio, mi appare sempre il vostro volto. Sarà questa l'educazione, il rispetto, le cose da fare e da non fare. No, questo è male. Sì, questo è bene. Sì, passo dopo passo mi accorgo che sarà questo lo specchio dell'amore. Allora dico grazie mamma, grazie papà, mi avete regalato il dono più sacro, quello della vita. Oggi vi faccio un sorriso e spero che sarà il più a lungo con voi in questo mondo. In questo mondo. Thank you.